Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocuis e separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Eccoci, 8-19 allora, minuti. Ci siamo. Nuove notizie: il Milan ha comprato un autobus Oscar Giannino. Di profughi. Ha comprato Oscar Giannino a 12 milioni. Ti mettiamo sulla fascia, secondo no, me. No, 12 milioni di che? 12 milioni di gomme da masticare, neanche. Dunque, allora, no, però, che abbiamo preso? No, pare che a Milanello ci siano Covid. Tutta la questione dei visti temporanei per l'immigrazione sarà risolta con acquisti del Milan. Acquisti del Milan, va bene. Però guarda, sei felice, vedi che... Ma che ti devo dire, cioè, da anni che non vivevamo questo momento di effimera gioia. Beh, effimera, mica tanto, che i giocatori acquisiti non siano proprio... che in agosto vincono tutti gli scudetti, l'Inter è specialista in questo. Dai, povero Mamiazza, non sa più dove mettere la testa quando fate la rassegna, oramai reagisce dicendo chiamo l'avvocato, non ha più argomenti, poverino, solidarizzo con lui. Allora, quindi, caro Mamiazza, non ti resta che pregare i santi del giorno, tra cui San Federico di Utrecht, vescovo evangelizzatore, perché insomma, Utrecht era nella Frisonia, cioè gli odetti in Paesi Bassi, fino a dopo il 1000 lì i cristiani non l'hanno avuta vinta contro i culti precedenti. E infatti anche Federico di Utrecht ci ha rimesso la ghirba, perché contestava una potente che pensò bene di tagliargli la testa. E poi tra gli altri San Bruno di Segni, qui siamo poco dopo l'anno 1000, una figura di piemontese, un singolare piemontese nato nell'Alessandrino, che diventerà poi in realtà molto caro Gregorio VII, il Papa che combatte per le nomine papali contro quelle dell'imperatore Enrico IV, tanto poi da diventare vescovo, punto di riferimento del Papa nella lotta per l'investitura, e abate di Monte Cassino. Quindi insomma, vescovi per così dire molto militanti e combattivi. Io preferisco San Materno di Milano, il settimo vescovo di Milano. Finisce male pure lui, però detto tutto questo un pochino meno combattente di quei dei due che ho citato prima. Poi mi piace questo nome Materno. È un bel nome. Allora, siccome niente avviene a caso, di fronte all'incendio della terribile, a vederlo, sono tutti terribili gli incendi che stanno avvenendo, ma certo è impressionante quello della pineta di Castelfusano ieri, mi è venuto in mente che proprio stanotte iniziava nel 64 d.C. l'incendio di Roma di Nerone. E a volte ci sono le coincidenze, il problema è irrisolto, come si suol dire. Anche all'epoca, tenete conto che a Roma c'erano fior di caserme che abbiamo ritrovato negli scavi dei vigili del fuoco, eppure non bastarono. Vabbè. Oggi bisogna fare gli auguri a una singolare triade di politici, perché compiono tutti gli anni nello stesso giorno. Due si spiegano. E poi fate voi, cari ascoltatori, io non dico vediamo niente, perché i nomi sono Ignazio La Russa e Maurizio Gasparri, e vabbè, Dio li fa e li fa nascere lo stesso giorno, ma anche Virginia Raggi, e sono nati tutti e tre in anni diversi, ovviamente, ma in questo stesso giorno. E va bene, insomma, alle 8:22 minuti, cari ascoltatori, sicuramente parleremo ancora del tema del giorno. Che è questo di l'Orso Yogi? No, il Winnie the Pooh. Perché tu sai la notizia, ha preso che c'è la censura in Cina, come giustamente richiamato nella segna stampa, Winnie the Pooh, perché assomiglia, assomiglia un po' nelle pose, Jinping, in alcune... Subito è partita la cosa, perché i renziani dicono Gentiloni in ascesa come l'Orso Yogi! Ecco, questo è l'Orso Yogi, ci fai caso un po'? Un po' a quest'area, eppure l'Orso Yogi popolarissimo ha fatto le scarpe a tanti altri personaggi iniziali di Walt Disney. Leggere oggi Pierluigi Battista, un po' tutti i giornali dicono questo Gentiloni, per 4-4 andreottiano dietro le quinte, non sempre, mai una parola fuori posto. Renzi spara e lui non dice mai niente, e però un passetto dopo l'altro, se arriverà, non c'è una maggioranza coesa dopo un voto con una legge elettorale fatta apposta per non consentirla, chi resta a Palazzo Chigi rimarrà fino al 2018, penso che poi dopo. Qui si parla del dopo. Se con la legge elettorale non c'è una maggioranza coesa, chi resta a Palazzo Chigi? Si sta parlando proprio nei prossimi 5 anni. Caro Matteo, non so. Sei così combattivo. Qua bisogna essere piano. Bisogna essere invece, come diceva Prodi, fermo. Te lo ricordo. Devi stare fermo, come il semaforo, fermo. Devo dire, ti ricordi quella fantastica parodia del fermo di Prodi alla stazione di Bologna che fece? Certo. Vabbè, comunque signori, parleremo, il tema del giorno rimane sempre lo Ius Soli, il perché dello Ius Soli, e ne parleremo alle 9, cercheremo di capire come mai c'è stato questo stop. Avremo ospite Antonio De Caro, che è sindaco di Bari, presidente dell'ANCI, eccetera. Però tra l'altro noi, Oscar, oggi vogliamo tornare, dando il numero di telefono 800 24 00 24, tornare anche sulla questione terremoto. Sapete che ogni tanto ci piace fare un po' il punto della situazione, anche perché è sparito dall'agenda. È sparito dall'agenda. Deve essere l'autostrada, la ricostruzione italiana, Casa Italia, eccetera eccetera. Ciao. Sulla ricostruzione. E poi sul fatto che, lo sai che ti devo stuzzicare ogni tanto su questa italianità nostra, su questa peculiarità di noi italiani, non genetica ma culturale, storica, insomma siamo in grado sempre ogni tanto di fare i furbetti, di fare i furbetti quando c'è l'occasione. Ma adesso a che cosa ti riferisci? Sulla questione del terremoto appunto. Ci sono vari casi di truffe sulla ricostruzione, Tra l'altro noi chiamammo già qualche tempo fa Marco Mattarelli, che è consigliere comunale a Cento in provincia di Ferrara, uno dei promotori di un comitato spontaneo di verifica dell'erogazione dei fondi per la ricostruzione dell'Emilia, quindi l'Emilia colpita dal terremoto. Marco Mattarelli, buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno a lei, Milen, buongiorno anche a Giannino. Eccoci, e tra l'altro mettiamo insieme due vicende diverse. Il sindaco di Tolentino in provincia di Macerata, Giuseppe Pezzanesi, che ci ascolta. Buongiorno sindaco. Buongiorno a voi, buongiorno e allora, buon lavoro ovviamente. Grazie, altrettanto. Ovviamente Mattarelli, intanto lei ci aveva detto che si controllava, no? Che c'era questo comitato di verifica. Volontari che di propria iniziativa volevano vigilare sul corretto utilizzo del denaro pubblico. E cosa avete deciso di fare? Cioè, viene utilizzato bene questo denaro pubblico o qualcosa? Io come posso dire, giovedì ho presentato gli ultimi due esposti, giovedì scorso sono stato in procura e ho presentato gli ultimi due esposti. Noi siamo già arrivati a 150 segnalazioni fotografiche alla Guardia di Finanza, 50 esposti giudiziari in procura fatti dal comitato e da uno dei suoi membri, 10 solo firmati da me, e abbiamo fatto una conferenza stampa anche la settimana scorsa dove c'era una sala piena di persone nel modenese. Esposti per che cosa? Cioè, cosa avete denunciato? Perché noi abbiamo rilevato, ci segnalano dei casi che sono a occhio rudo anomali, cioè vecchi fienili abbandonati prima del terremoto, ricostruiti e diventati apparentemente case per fare degli appartamenti, tuttora disabitati, non abitati dai proprietari. Case che erano disabitate, prive di collegamenti telefonici, luce, gas, acqua, eccetera, come dicono le normative, quindi non abitati prima del terremoto, che vengono ricostruiti. Li abbiamo documentati fotograficamente, messi anche nei vari social che la gente vede. Sì, no? Sì. Abbiamo parlato anche con la finanza ci plaude, la finanza dice che è grata alla Guardia di Finanza, intendo dire, del nostro lavoro, ma in realtà la politica è silente, la politica tutta, no? Perché qui siamo in Emilia Romagna, voglio dire, questo qui c'è via Stalingrado, Bologna, non so se mi spiego, se questa deve risultare la miglior regione d'Italia. l'Italia, non so, qui abbiamo sempre l'etichetta della medaglia, no? Cioè siamo sempre i migliori in tutti i sensi, ecco, quindi la ricostruzione per chi governa queste regioni dal 70, dal 42 deve risultare un fiore all'occhiello, ha capito? Vabbè, però voi procedete, voi procedete con gli esposti, insomma, la Guardia di Finanza vi ringrazia. Ma sì, ma guardi, però come dico sempre con i miei colleghi del comitato, che sono tutte persone che hanno una professione, un'attività, gente che sa fare, voglio dire, non degli improvvisati, perché per cercare un po' di consenso, cioè non c'è nessuno di noi che scrive degli avanti, mi spiego, cioè qui noi abbiamo, ognuno di noi ha una professione. L'abbiamo fatto perché abbiamo trovato insieme queste anomalie, ma io rimango il più scettico del gruppo, sa Mira, rimango il più scettico, perché questa è un'Italia che è corrotta nelle anime, mi spiego come, cioè, è moralmente fallito. Guardi, su questo, ma lei dovrebbe, noi dovremmo metterci una webcam, Oscar, al caffè, quando poi discutiamo su questa cosa, perché ci animiamo, no? Ci animiamo, perché Oscar invece sostiene che dire che l'italiano è appunto insitamente corrotto è sbagliato, no? Ma non è insitamente corrotto. Però un po' ce l'ha detto, un po' ci ha detto le anime corrotte, insomma. Ormai siamo corrotti da una politica che non è più politica, ma è una cozzaglia, un aggrovigliato di interessi che rappresenta ognuno di noi, è come la barzelletta delle due biciclette, mi spiego, cioè se riguarda gli altri va bene, se riguarda me non va bene. Su questo però se tira in ballo la politica, Oscar, ha avuto un sussulto. Cioè, la mia, l'abbiamo detto 100 volte, ma in sintesi estrema, una storia in cui le istituzioni, lo Stato, chiamatelo se preferite così, ma insomma, le istituzioni, siamo arrivati alle istituzioni tardi, male, con staterelli precedenti che hanno una linea di continuità con le classi dirigenti attuali, cioè con un atteggiamento rapinatore, ma delle classi dirigenti. Ma io non ci metto solo la politica, se andiamo a vedere i banchieri italiani, troppe volte la finanza italiana, gli imprenditori italiani, troppe volte ci sono questi atteggiamenti. E allora, vedendole dall'alto queste cose nei secoli, purtroppo più così che virtuosi, è chiaro che sotto l'influenza delle istituzioni c'è, cioè nel sistema Douglas North, e allora la gente dice, beh, insomma, se queste sono le classi dirigenti. Però io credo a questo, non credo affatto che gli italiani siano... Però Mattarelli, allora, vogliamo ascoltare e spostiamoci un po' più a sud, perché Giuseppe Pezzanese, che ci ascolta, sindaco di Tolentino, Macerata, anche Macerata e Tolentino colpita dal terremoto, 20.000 abitanti, 5.000 sfollati, questi sono i numeri, un po' sindaco ci corregga se... Sono questi. Noi naturalmente viviamo un dramma, ascoltavo con molta attenzione, più fresco, più recente del terremoto, del sisma, e quindi ascoltavo con molta attenzione, perché tra le pieghe di un discorso sicuramente che non può mortificare l'Italia intera, perché io dico sempre, sono della teoria che ci sono comunque persone disoneste e che più che altro vanno perseguite, ci devono essere leggi molto più rigide nel momento in cui vengono individuate, ma ci sono anche tantissime persone, tantissimi italiani che fanno il proprio dovere, che hanno le mani callose, lavorano, pagano le tasse, che vorrebbero appunto un'Italia diversa, quindi c'è sicuramente un vuoto che va colmato, che è quello di chi governa, di chi deve legiferare, di chi deve fare... che non fa e che praticamente poi irretisce con la burocrazia tanti procedimenti, e poi magari quando si becca qualcuno che delinque non c'è nemmeno l'immediatezza della punizione, perché lì, ecco, sindaco, effettivamente anche lì si indaga, lì nel senso in centro Italia si indaga su quelli che potrebbero essere i furbetti del contributo, no? Quelli che lei dice, tocca una materia molto importante che non è devastante, ma comunque può, fermata sul nascere come stiamo facendo, dare il buon esempio e sicuramente scongiurare ben più grossi. Quindi noi stiamo, attraverso un'operazione capillare di riscontro, incrociamo i dati tra le varie strutture, quindi tra chi eroga l'energia, tra chi come il centro anagrafe o l'ufficio anagrafe ha altri dati e i dati in possesso ai servizi sociali, e questo sistema ci consente di vedere che ci sono delle anomalie, e queste anomalie poi vengono approfondite, vengono, nel caso sono irregolari, naturalmente vengono scongiurate e denunciate. Ecco, questo però, ripeto, è qualcosa che dà fastidio, molto fastidio, perché l'Italia, io non penso che, ecco, anche voi ricordate i vari aiuti, non del sisma ovviamente, che ci auguriamo non venga mai più, ma vi ricordate anche gli aiuti agroalimentari, altri tipi di aiuti insomma che vengono anche dalla Comunità Economica Europea, fondi che poi vengono distratti fondamentalmente da quelle che sono le loro destinazioni. Questo, c'è un apparato molto organizzato e a volte c'è anche l'occasionalità, ma io torno a dire che il nostro compito è quello di scongiurare queste cose, magari facendo capire a chi poteva avere l'intenzione di avventurarci, che è un campo dove... Ecco. No, ma che poi è una cosa terribile, perché se ci si pensa, Oscar, vuol dire speculare su una disgrazia anche questo. Perché, distrarsi. Sì, ma perché poi, su una disgrazia che ha portato via case e vite umane. No? Le non troppe risorse che non arrivano affatto, tra l'altro sollecitamente, ancora una volta, la solita si ripete, significa avocarla secondo criteri che non sono quelli di chi davvero ne ha bisogno. Sì. Ma tra l'altro, Sindaco, noi facciamo sempre il punto sugli aiuti, ecco, quanti edifici sono stati danneggiati e gli aiuti sono arrivati, concreti, ci sono ancora sfollati a Tolentino? Allora, noi abbiamo, come dicevo prima, ancora 5.000 persone che devono rientrare nelle loro case, che valgono ovviamente del contributo di autonoma sistemazione, quindi che attualmente sono in altre abitazioni dove pagano l'affitto e quindi fuori dalla loro città magari di nascita o di residenza, che è Tolentino. Ma a proposito di edifici, noi abbiamo 3.897 circa edifici danneggiati, tra edifici pubblici, ospedali, scuole e quindi luoghi di comunità e soprattutto anche tantissime case di proprietà privata. Quindi sostanzialmente la gente è snaturata, non ha più punti di riferimento, ci sono queste 5.000 persone circa che non conducono ovviamente una vita normale, hanno avuto salva la vita, ma ovviamente tutto il resto è saltato. E tra l'altro le persone anziane, le più deboli, hanno accusato mortalmente questo problema. Beh, perché, classico, ecco, strappate dalle loro abitudini, abbiamo avuto un incentivo delle mortalità altissimo, soprattutto nei primi mesi dopo il 30 ottobre. Quindi questo attesta molto molto chiaramente, ecco, qual è il pathos della popolazione. Poi la popolazione ovviamente, seguendo i media, si aspetta, oltre che naturalmente il coraggio dei sindaci, che vengono spesso, troppo spesso, lasciati da soli. Aiuti concreti. Reattività da parte dello Stato anche in ordine agli aiuti e ai fondi, che invece fanno fatica ad arrivare, a volte ritarda anche il contributo di autonoma sistemazione. E questo l'abbiamo raccontato varie volte. Ecco, quindi... Aspetti, Sindaco, che Oscar voleva... No, volevo solo per far capire a chi ci ascolta, perché un mese fa tutti quanti, io stesso per il Messaggero e così via, abbiamo dovuto dare conto di questo primo bilancio, che era il bilancio a giugno, che era un bilancio devastante, cioè nel cuore dell'area a cavallo delle quattro regioni colpita dai due sismi dell'anno scorso, risultava che purtroppo il 92% delle casette di prima sistemazione emergenza non era stato consegnato, e la domanda era quante ne sarebbero state consegnate prima che il prossimo inverno, e anche il 92% delle macerie, sto parlando del cuore, del fulcro dove ha colpito il sisma con più forza, era ancora a terra nei comuni. Tolentino è in un'area leggermente fuori proprio dall'epicentro, epicentro, ma voi sulla questione quantomeno della piena ricognizione dei danni negli immobili, perché anche lì nei comuni del centro andava ancora effettuato oltre un quarto delle verifiche tecniche, voi a che punto siete con qualche numero per far capire a chi ascolta su queste cose? Ma noi, guardi, abbiamo prodotto uno sforzo straordinario anche e soprattutto con i nostri dipendenti, che hanno ottenuto la qualifica attraverso un corso di operatori riconosciuti dalla Protezione Civile per le cosiddette schede AIDES, e quindi i sopralluoghi ufficiali per poi inoltrarsi nella fase della ricostruzione. Quindi abbiamo terminato quest'opera e l'abbiamo fatto circa un mese fa, l'abbiamo chiuso tutto, ma erano numeri roboanti. E questo ci consente di essere pronti per l'eventuale ricostruzione, che naturalmente ha bisogno di fondi. Invece per quanto riguarda le casette, noi abbiamo grandi numeri, perché Tolentino, per via dei suoi 20.000 abitanti, non ha avuto ovviamente vittime, per fortuna. Venivamo dal terremoto del 97, quindi eravamo già passati attraverso una riqualificazione dei nostri edifici, e quindi praticamente abbiamo avuto una reattività che forse non è riscontrabile in altri comuni, perché abbiamo, c'era una macchina in qualche modo, sì, che era già pronto. Ecco, ci vuole anche coraggio. Abbiamo intrapreso immediatamente, affrontato le zone rosse, ne avevamo 7, abbiamo eliminato dalle vie le macerie, abbiamo messo in sicurezza gli edifici e naturalmente siamo avvantaggiati rispetto ad altri cittadine magari più piccole che sono state rase al suolo, sì, perché più vicine all'epicentro, quindi lì la problematica delle macerie è maggiore. Naturalmente è maggiore. No, vorrei tornare per un attimo da Marco Mattarelli, perché io ho una domanda che ho, ma Mattarelli, ma quando voi fate le denunce di persone che magari conoscete anche, no, fisicamente, poi vi incrociano in paese, vi incrociano guardi, più che denunce, noi facciamo degli esposti, degli esperti, sì, della gente comune, la quale vede delle cose strane, poi andiamo in giro, le vediamo. Quello che più però ci lascia perplessi è l'esposto che abbiamo presentato ieri, l'ultimo, abbiamo fatto un esposto alle procure di Modena e di Ferrara, indicando in questo caso come i sindaci teoricamente responsabili di questa, come posso dire, distrazione, no? Perché la legislazione dell'Emilia Romagna individua nei sindaci come i vice commissari responsabili, quindi è il sindaco di ogni cittadino, di ogni paese, che firma le pratiche, che concede i contributi per la ricostruzione, a prescindere da se o meno, diciamo così, c'è un diritto certo oppure no, perché la pratica viene inoltrata tramite una filiera di tecnici, di imprese della ricostruzione che giurano con delle perizie che quell'immobile era danneggiato. E cosa vi ha colpito di quest'ultima? Cosa ci ha colpito? Il fatto che nessuno dei sindaci da noi invitati, degli esponenti del governo regionale, si è mai presentato alle nostre conferenze stampa, eccetera. Cioè ci giudica, veniamo giudicati come dei moralisti. Qui voleva arrivare. Cioè, vi guardano un po' come dei rompicoglioni. Sì, mentre la Guardia di Finanza ci fa degli elogi nel segreto degli uffici in cui ci siamo incontrati con loro almeno un paio di volte, no? E continua a stimolarci a produrre segnalazioni anche fotografiche su immobili che noi riteniamo ingiustamente ricostruiti con i fondi, là tutto il resto, la filiera politica, la filiera tecnica, la filiera amministrativa, no, c'è silenzio, proprio ci minacciano. L'assessore regionale ci ha minacciato di querele, nel senso, come dire, ha detto: ma lei chi è? Come si permette? Noi siamo bravi, buoni e belli, noi non sbagliamo niente. Cioè, il nostro lavoro, che dovrebbe essere visto in un paese normale come un banale contributo di un cittadino che crede che sia giusto non sprecare il denaro, siamo in otto, non è che sono solo io, Marco Mattarelli, il consigliere comunale a Cento, è un povero liberale che cerca di dare un po' di dignità in questa operazione, ma veniamo indicati come dei rompicoglioni, esattamente come ha detto lei, capito? Quando le dicevo prima che questo senso del fastidio che noi avvertiamo non nella gente comune ma nella filiera tecnico-amministrativa istituzionale deriva dal fatto che la politica, quello che avverto io, quello che vedo io, che ho detto anche ieri sera in conferenza stampa, quello che noi diciamo quasi sempre nelle nostre conferenze stampa, ormai sono già una quindicina le conferenze stampa che abbiamo fatto, è che il denaro che noi abbiamo coagulato circa in 100 milioni perlomeno, i casi che a nostro avviso sono segnalati, quelli che abbiamo segnalato con i nostri esposti equivalgono a circa un centinaio di milioni di denaro secondo noi speso non correttamente per ricostruire, veniamo visti più che altro come quelli che si intromettono in un meccanismo che trasforma una tragedia, come diceva prima il sindaco, che trasforma una tragedia in un affare. E questo è il senso di disagio più grande. Ma è chiaro, è quello. Questo mi fa un po' vergognare anche di essere un rappresentante delle istituzioni, perché ormai sono un consigliere comunale eletto, però. Allora, facciamo una cosa, noi intanto ogni tanto torneremo a fare un po' il punto della situazione. Comunque Mattarelli, posso dire, da pochi gatti liberali, tra noi ce lo possiamo dire, da fuori non ci capiscono, perché non si rendono conto che abbiamo la coccia dura, perché per noi viene prima il fatto che vanno fatte le cose bene individualmente e così via, viene prima del fatto che bisogna piegare il ginocchio di fronte agli inni della collettività che funziona, perché questo è ciò che voi mettete in discussione con le vostre denunce. Tutto lì, quindi lei lo sa, voi lo sapete, andiamo avanti, non facciamo le vittime, tanto quelli continueranno a dire che è il migliore dei mondi possibili l'Emilia Romagna. Allora, facciamo così, nel ringraziare il sindaco di Tolentino, Giuseppe Pezzanesi, e Marco Mattarelli, che è consigliere comunale a Cento Ferrara, ma fa parte di questo comitato spontaneo di verifica dell'erogazione dei fondi per la ricostruzione dell'Emilia. Andiamo anche un attimo in pubblicità, poi riprendiamo dagli ascoltatori altri temi. Nuovi acquisti del Milan in questi minuti, Milan, proprio ultimissimo. Sì, infatti adesso Peter Bescapè lo mettono come capo tecnico a Milanello, 3 milioni l'anno, tutto a posto. Vai Peter, adesso firmiamo. 24 mattino, attenti a noi due. Allora, caro, qui stiamo discutendo sulle ipotesi. Insomma, Alessandro ha delle notizie che non vuole dirvi su come si completerà l'attacco del Milan, però le apprenderete. Stavamo molto effettivamente rapidamente discutendo di calciomercato, ormai sono molto ormai rapidamente. Siamo partiti di testa. Io sono un torinista realista, lo sapete. Quindi, per me, caro presidente Cairo, la questione è incassare il più possibile in liquido e giocatore. Beh, insomma, ormai mi pare che sia segnato il destino di questo campione, segnato il destino. Io poi non sono uno che pensa che quando si cambia maglia bisogna insultare quello, un giocatore destinato a tentare di portare l'Italia ai mondiali, quindi va bene che stia in una squadra, secondo me, più coerente anche al fatto di dargli una bella vetrina, una bella possibilità. Sperando che sia il Milan, io non so se sarà il Milan, però il Milan mi sembra più avanti di altri. Sembra così. Perché però, tanto ormai, una volta scoperto che è iniziato questo circuito della doppia moneta di Berlusconi, lo stanno applicando al Milan, perché pagheranno con Amlire. Però detto questo, beh, vedi, insomma, che anche tu hai queste idee, no, che siano, no. Non so, in via Sarpi, qualcuno a stampare del Io vi faccio notare che ieri la borsa cinese è crollata parecchio, perché i giri di vite del sistema del partito contro i finanziamenti, tra virgolette, un po' scelto, non molto chiari a chi compra all'estero, eccetera, eccetera, sono giri di vita su una parte fondamentale del circuito del credito non dichiarato in Cina. Ieri hanno prodotto una bella bomba, una bella botta. Quindi chi lo sa. Vedere se gli acquisti del Milan vengono usati nella lista nera o nella lista. Sarà stato un hackeraggio di Winnie the Pooh alla borsa cinese. Volevo segnalarti questa meravigliosa storia di come non funziona l'Italia. Oggi è il mattino ad aprirci di Napoli, però è una storia nazionale, perché all'inizio dell'anno il governo Renzi ci aveva annunciato che quest'estate, per sostegno alle famiglie che hanno pochi soldi, non possono fare grandi vacanze, eccetera, c'era una grande idea, quella di utilizzare soldi PON, quindi non quelli del bilancio, ohimè, magrissimo, degli istituti scolastici, per vedere chi vuole rimanere aperto d'estate, delle scuole resti aperto. Ottima idea, i soldini c'erano, non chissà quanti, ma c'erano dai piani PON. E la commissione viene insediata a gennaio, finisce di lavorare a giugno. A quel punto si fanno avanti gli istituti che aspettavano da 6 mesi, e si scopre che sono più di 8.000 che fanno domanda. Sì. Le domande vengono processate fino al 13 di luglio. Adesso bisogna fare i bandi, che devono essere pubblici, durare più di 30 giorni. Il risultato arriverà settembre e non una sola scuola italiana sarà aperta. Mi dispiace dirlo, perché è una storia veramente di quella in cui le buone idee, trovando anche dei soldini, la pubblica amministrazione e i staccati che fremevano, perché dicevano: oh, ma ci toccate pure l'estate, noi siamo pagati per non lavorare d'estate. Ecco, tutto questo risultato l'Italia di Pulcinella, perdonami se la dico così, però avrei pensato più amaro. le scuole chiuse, perché non si trova personale pronto a tenerle aperte. No, sai, il personale è addetto anche d'estate, come sai. Poi, detto tutto questo, le lunghezze della burosaurocrazia italiana, ecco qua, una bella idea finita in nulla. C'è Paolo che ci chiama da Foligno, buongiorno. Buongiorno. Senta, io volevo fare una riflessione sul seguito dello Ius Soli, no? Sì. E praticamente una delle motivazioni che viene addotta soprattutto da una certa parte politica, cioè tutto il centro-sinistra, è quella di dire: ma insomma, sono figli di genitori perfettamente integrati che lavorano e pagano le tasse. Allora, io su questo perfettamente integrati credo che sia ora di aprire una discussione seria su cosa si intende per integrazione, perché il lavoro in se stesso non è garanzia di integrazione. Il lavoro è un contratto, ci si mette d'accordo, io presto un'attività lavorativa in cambio di soldi e pago le tasse per avere dei servizi, scuola, ospedali e via discorrendo. Io conosco molte famiglie straniere che sono qui in Italia da molti anni, pagano le tasse ma non aderiscono ai valori fondamentali della nostra Costituzione e del nostro vivere civile. Faccio riferimento alla discriminazione uomo-donna, faccio riferimento alle discriminazioni in materia sessuale, contro le minoranze gay e via discorrendo. Quindi vorrei dire che la scuola è importantissima, ma il primo fattore dove si veicola la cultura è quella familiare. Quindi quando si parla di perfettamente integrati, io penso facciamo una pausa di riflessione e andiamo a vedere quali sono i criteri che definiscono la integrazione. Paolo, non lo so, non c'è un criterio comune, ci sono anche tantissimi italiani che lavorano e sono poco integrati nella società, nel senso che non può valere per tutti questo discorso, non solo per gli stranieri. Figurati, io sarei così coerente che fare l'esame del minimo necessario di cognizioni per consentire il diritto di voto. Ma no, perché sai, applicare agli altri ma non applicarlo a sé infatti, è molto comodo. Perché il principio, immagino che Paolo dica, ma io sono italiano, quindi nel momento in cui sono italiano, no, ce l'ho nel DNA, no, il fatto di essere italiano. Grazie Paolo da Foligno. Angelo da Modena, buongiorno Angelo. Buongiorno, buongiorno, complimenti per la trasmissione. Anche a lei, grazie per la voce squillante. Squillante, sì, perché devo dire adesso quello che dico. Vediamo. Allora, veniamo al dunque. Sì. Il 20% dei giovani, quest'altro, o non studiano, non lavorano, sono desbandati perché non appartengono a questa società. Sì, il 19%. Io avrei una proposta da fare. Se mi sento le alte autorità. Sì. Ce la faccia, vediamo la faccia. Non si arrabbi, si arrabbi di questa proposta che vorrei fare: ripristinare il servizio militare, non 2 anni, almeno 8 mesi, che si adeguano alla vita nostra, che non è fatta di Un po' di ordine, capito? Però ripristinare il servizio militare. Va bene, Angelo. Questa è la proposta. Però il lavoro rimarrebbe dopo questi 8 mesi. Sì, forse, caro Oscar, Angelo ce lo dice così. Almeno vengono richiamati un po' anche all'idea del fare, l'idea della disciplina, l'idea dell'ordine. Però sto dicendo, sei evidentemente giovanissimo. Basta che parli con chiunque sia passato per la coscrizione obbligatoria, certo. Italiano, modello Italia, perché come modello sempre Italia. Ecco, modello Italia, perché quei valori che hai appena elencato non li associ di solito all'esperienza che hai avuto, ecco, però. Ma poi voglio dire, una volta uscito da questi 8 mesi, non è che il problema, Angelo, si riferisce alla notizia che mi ha dato anche prima della sera dei cosiddetti NEET, cioè 19% di giovani che non studiano e non lavorano. È un sistema, la radice di quello sappiamo qual è, cioè la scuola, ciclo secondario, terziario e post-terziario, non è costruita secondo le competenze necessarie al mondo del lavoro. Quindi, dopo che arrivi ad avere una laurea, te la metti in tasca e al 99% chi ha un buon diploma tecnico, e sono pochi perché abbiamo ucciso l'onore e le risorse di quel settore, abbiamo perso moltissime migliaia di iscritti, quelli trovano un lavoro prima e tu fai il frustrato intellettuale. Sappiamo che dipende da questo, però siccome la scuola è fatta per chi ci lavora, cari sindacati, e non certo per cambiarne i profili formativi pensando a chi la frequenta, ecco, sappiamo perfettamente che questo è il problema. Però tanto nella scuola arrivano le fedeli che capitolano al sindacato. Sono brutale nel mio giudizio, però così è stato. Nel senso di ministro. Certo, perché così è stato da chi è ministro. Il PD ha ritenuto che Correnzi aveva pagato un prezzo troppo elevato nel referendum alla buona scuola e quindi capitolazione. C'è Franco da Bari, buongiorno Franco. Buongiorno. Oh, ma oggi tutti ragazzi si è sparso l'ottimismo. Vabbè, Franco. Dica. No, da stamattina non fate altro che dire brutte notizie. Incendi. La borsa. Ce ne dica lei una bella. Ce ne dica una bella lei. Da oggi vorrei dare questa bella notizia a tutta l'Italia. Sì. Italiani, da oggi sono in pensione dopo 65 anni. Grande Franco! Grande Franco! Si goda la pensione! Grande Franco, grande notizia! Oscar dice, Oscar qui dice, bisogna lavorare! Lavorare! Lavorare! Vabbè, invece Franco vabbè, da Bari. Va bene, io sono felice per lei. È felice, però poi vedrà, si è organizzato la vita? Ma sì, Franco, se l'è organizzata la vita, Franco. Sì. Se l'è organizzata. Un'altra bella notizia? Sì, ce ne dica un'altra. L'Inter è l'unica squadra in Italia che non ha mai giocato in Serie B. Lo deve ricordare tutta l'Italia. Va bene, Franco, lei oggi ha due gran belle notizie. Inizia questa pensione con uno spirito molto pugnace, esatto, molto, molto vitale, pugnace. Noi siamo felici di questo. Dai, e andiamo al giornale radio, andiamo in onda poi fino alle 9.30, state con noi. Licenziato! Se negli ultimi 30 anni vi siete persi in qualche universo parallelo, mi presento. Sono Dylan Dog, quel Dylan Dog. L'alba dei morti viventi, il lungo addio, Ucronia, dopo un lungo silenzio e tanti altri episodi. Dylan Dog è tornato per tutta l'estate su Radio 24 e con lui Gruccio, le sue donne e i suoi nemici. Ci ritroveremo, Dylan Dog. Ci ritroveremo. Dylan Dog, l'indagatore dell'incubo. Ogni domenica alle 20.10 su Radio 24. 24 mattino. Attenti a noi due. Allora, le 9:07. 9:07 e ancora non c'è la notizia. Non c'è la notizia del nuovo acquisto del Milan. Sì, perché la verità vera, cari ascoltatori, che Alessandro Milan viene ingaggiato come capo al coro dei tifosi in tutte le partite in casa e in trasferta. Anche aiuto cuoco. Mi è contento. 500.000 non si sa perché devi superare quote. A quel punto va bene che tu hai degli amici del settore, io lo so, perché sì, dovresti fare prove di cucina cantonese. Va bene. Dai, ci sono gli ascoltatori. C'è Germano da Lecce. Buongiorno. Io ho ancora l'eco del Franco da Bari al primo giorno di pensione. L'entusiasmo di Franco da Bari. E invece Oscar diceva: ma vedi, gli italiani puntano solo alla pensione. Figurati, non mi considero superiore degli italiani. No, sono coerente però, anche in questo. Sono io che sono fuori. Oscar vorrà lavorare fino a 89 anni. Io spero che ci sia qualcuno che continui a pagarmi, perché altrimenti non so come farò, perché sono di quelli che, anche perché sono stupido, io non ho fatto causa a un datore importante per orgoglio, quindi ho 8 anni di contributi in meno, lasciamo perdere che è meglio. Però detto tutto questo, errori che si pagano. Va bene. La politica, tanto per essere chiari, quel datore era, e ho sbagliato io, lo ammetto. Germano da Lecce, buongiorno. Buongiorno. Mi sentite? Benissimo, intervenire? Prego Germano. Salve, buongiorno, complimenti per la trasmissione che seguo sempre. Volevo intervenire sul tema della disoccupazione giovanile, sì, e dire che secondo me bisognerebbe ripartire, questo paese dovrebbe ripartire con forza dalle scuole professionali e dai mestieri. D'accordo. Basta pensare che, un esempio, a una piccola collisione fra due veicoli che circolano su strada, arrivano 3 o 4 avvocati pronti a dare il loro contributo. Se perde il rubinetto di casa, magari chiami l'idraulico di turno, se viene il giorno dopo, se si ricorda e se ha tempo. E magari anche solo la chiamata costa 50 euro. Io sono un impiegato e faccio questo confronto. La sola chiamata di un idraulico costa quanto magari una sola giornata di una mia giornata di lavoro. Per cui credo che ci sia spazio in questo settore, spazio per i giovani, spazio perché alcuni mestieri non si trovano più, non si riescono a fare, non si trova le maestranze necessarie, e credo che questo avvenga soprattutto nelle grandi città. Quindi sì, la mia idea è ripartire, ma in maniera seria però e professionale, dalle scuole appunto professionali che avviano ai mestieri. Quindi magari guardare un po' meno ad attività che oggi sono molto inflazionate, il commercialista, l'avvocato, ce ne sono fin troppi, e ripartire invece da mestieri che poi effettivamente possono dare ricchezza e possono dare un futuro anche gratificante dal punto di vista economico. No, ma è chiaro, grazie Germano per questo suo intervento. Andrea Palermo da Elvira, buongiorno. Buongiorno, Elvira. Allora io voglio dire una cosa sui giovani, è vero, non c'è lavoro, molti sono un po' depressi e non lo cercano neanche. Però quello che mi manda in bestia, e in questo momento sto pensando anche ai miei nipoti, è che non protestano. Io sono una signora di 68 anni e da Palermo me ne andavo a Milano ai tempi, dico ormai ai tempi, a protestare per un futuro migliore, e ci scambiavamo idee, e sai come li scambiavamo? Dal telefono al gettone. Ora loro hanno Twitter, fanno le email, hanno tutto, di tutto e di più, si sentono social e sono, a parere mio, tutti a social, perché non riescono a mettersi in comunicazione per creare qualche cosa, per fare un'unione che faccia la forza per il loro futuro. Ed è questo che ho l'impressione che aspettino il Deus ex machina. Invece la sentiamo appassionata su lo questa, so, direi, io ho un'opinione radicalmente diversa. Il problema è che noi della generazione precedente li accusiamo di non credere nell'azione collettiva. L'azione collettiva degli anni 60 e 70 delle nostre giovani generazioni ha portato svolte positive. Quelle degli anni 60 nel costume, nella morale e nel sesso, dopo no. Perché io sono cresciuto in mezzo alle pistole a Torino, ai morti ammazzati, ed era gente che sparava, che ci veniva al liceo a dare le pistole, per dire, estremismo, ma non era solo Roma e Torino, era così in mezzo all'Italia. Allora, loro credono di più nell'azione individuale, sbagliano davvero, perché in questo, se andiamo a vedere quello che si inventano i ragazzini con le app, i social eccetera eccetera, forse sono meglio bisogna di capire noi, Elvira, bisogna capire, Oscar, se quello che dice Elvira, cioè se davvero credono nell'azione singola o se tante volte questa almeno quello che dice Elvira, che la mancanza di è proprio più una inazione, cioè ma per l'azione molti tradizionale di loro. Non credono ai sindacati e ai partiti, ma fanno bene, scusa, la lezione l'hanno imparata almeno loro. Questo sì, però voglio dire, i cosiddetti sdraiati o i cosiddetti insomma svogliati, forse svogliati. Forse, ripeto, forse se la scuola ti dà un curriculum che il mercato del lavoro non vuole e l'economia per l'assunzione è solo relazionale, l'effetto non è che la gente sta a casa perché si gratta, è che i meccanismi sono costruiti per l'economia relazionale e per titoli altisonanti non professionalizzanti. Io provisco a vederla così, ancora una volta, non prendermela gli italiani giovani, sì. Ecco. C'è Massimo da Verona, buongiorno. Sì, buongiorno. Eccoci. Complimenti per la trasmissione. Sì, grazie. Niente, ritorno all'argomento di quel gruppo di, adesso non ho capito bene il nome, dell'Emilia che si interessa di chi usa i fondi per il terremoto impropriamente. E il comitato spontaneo di verifica dei fondi per la ricostruzione. Bravissimi, complimenti a loro, anzi, solidarietà. E ai sindaci che gli firmano le pratiche praticamente per accedere a questi fondi. Da quanto ho capito, no? Quindi c'è anche una partecipazione. Ecco, io proporrei che intanto commissionare questi sindaci, secondo togliere le case a queste persone che hanno usato impropriamente questi soldi e metterci i migranti, visto che abbiamo bisogno di tutti migranti, questi alla fine si arriva sempre. Quindi alla fine soldi dello Stato che ritornano allo Stato, perché va bene, no? Massimo, grazie per la proposta. Anche andiamo un po' di corsa. Abbiamo due ospiti e uno di questi, sai che è un ritorno, caro Oscar. Uno di questi è il segretario generale della CISL Funzione Pubblica a Venezia, Massimo Grella, che è già stato con noi. Grella, ben ritrovato, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti e un particolare buongiorno a voi. Eccoci, perché l'altra volta ci eravamo sentiti sul cosiddetto patentino, dai, diciamo, i punti per i vigili di merito. Sì. Qui invece c'è una questione di una disfida un po' sulle cifre, perché alla festa del Redentore a Venezia il sindaco Brugnaro, l'assessore d'Este hanno detto ci sono 77 vigili che hanno marcato visita. Voi dite ma no, ma quali 77, saranno stati quanti, Grella, secondo voi? 3? Ma allora, in realtà sono molti, dobbiamo distinguere. Intanto io ho letto dell'assessore d'Este, lui sì, che si è esposto. Il sindaco non l'ho sentito esporsi su questa questione, anzi hanno fatto un comunicato ufficiale, il comune ha registrato l'ottima organizzazione fatta da tutte i le numeri, polizie. I numeri? Dell'organizzazione? No, i numeri, quella sera l'abbiamo chiesto, quello, lei parte per la tangente, i numeri. I numeri, quelli che risultano a noi è oltre 180 vigili presenti, l'anno scorso erano 175, quindi sono stati presenti 5 persone in più, il corpo è da 350-360 persone, non tutti sono impiegati però operativamente, alcuni fanno e gli assenti? Gli assenti secondo voi? Allora, gli assenti per malattia, perché questa è una cosa che è stata detta, secondo quello che risulta a noi, assenti di giornata per malattia sono 3. Questi sono i numeri che risultano a noi. E per il comune 77. Però non sono assenti per malattia. Il comune, purtroppo, secondo me, è segnatamente l'assessore d'Este, non altri, perché anche, anche oggi sui giornali non sento parlare altri, ma sento parlare solo lui. Sì. I 77 sono anche in vari permessi che sono stati autorizzati precedentemente dal comune stesso. Quindi l'assessore, in sostanza, fa polemica contro se stesso per certi versi, nel senso che non sono tutte malattie questi 70 e oltre, attenzione, ci sono permessi per studio, ferie normali, riposi, ci sono varie cose che queste persone hanno chiesto e il comune, ha concesso. Il comune ha dato, quindi dice limite. No, è semplicissimo, perché non è che uno decide la mattina di stare a casa e si autorizza da solo, sono tutti istituti contrattuali ad autorizzazione preventiva, ok? Quindi se sono rimasti a casa è perché evidentemente potevano rimanere a casa. Potevano rimanere a casa. Tutto qua. Ma questa polemica dove porta? Io non so, perché sui giornali ovviamente è come è stata data, cioè assenteismo in massa alla festa del Redentore, no? Era fatte le debite proporzioni, la vicenda, due anni di distanza del Capodanno, due anni fa a Roma, con i vigili che marchiavano. E anche lì i sindacati dicevano, quando mai, tutto sbagliato, quello che dice l'amministrazione... Il risultato è che indagini, procure, eccetera, eccetera, medici a Roma anche rinviati a giudizio per false attestazioni clinico-sanitarie, a Roma c'era un quadro complesso di tipologie. Allora, per l'idea che mi sono fatto su Roma a distanza... dopo diverso tempo, diciamo che c'era qualche patologia in quel che è accaduto parecchio, io me ne sono occupato per due anni. Mi permetta, ma io sono sindacalista, quindi non posso non può spingersi troppo là, parecchia, parecchia. C'era della patologia. Qui secondo noi non c'è patologia. Qui, grazie alla contrattazione integrativa di cui abbiamo parlato l'altra volta, e il signor Milan mi chiedeva ma perché pagare due volte una stessa prestazione, qui ci sono stati dei turni fatti di sette ore oppure addirittura anche più ore, per i quali turni è stato previsto un compenso accessorio che ha permesso a questa città di stare in totale sicurezza. Guardi, mi permetta, io sono stato presente alla manifestazione, una manifestazione straordinaria, grazie all'amico Mazzetto che mi ha portato nel bacino di San Marco. Noi abbiamo visto una manifestazione eccezionale, cioè di un interesse straordinario, e tutto è avvenuto nella maniera più tranquilla. Quindi lei dice una polemica così per te. Guardi, come lei spesso dice, però stiamo chiedendo all'oste quanto è buono il vino. Il problema è noi l'abbiamo sottoposto, deve saperlo con un po' di malizia, perché io naturalmente, siccome inneggio al fatto che la CISL anche vuole essere misurata e così via, però ogni tanto la mia malizia mi porta. Abbiamo fatto una prova per vedere se parlava con la stessa lingua nelle due trasmissioni. Adesso, obiettivamente, io le riconosco una certa eleganza, però lei ci dice, insomma, è l'assessore, poi sottolinea sempre, è solo l'assessore, non il sindaco, nessun altro in amministrazione, che non capisce che non è stato un problema. Vedremo, perché naturalmente dovremo a questo punto andare avanti e fare il nostro mestiere. Anche perché risulta che il sindaco di Venezia, Brugnara, invece ha annunciato controlli su chi si è messo in malattia, quindi non è che è proprio, cioè, lei la mette solo l'assessore. Controllo poi naturalmente parte dal fatto, in questo ha ragione il nostro ospite, di verificare, il sindaco non può saperlo lì per lì, di verificare per ciascuno quale fosse la... Sì, in alcuni casi sono i permessi legge 104, quindi anche assistere persone, parenti malati e bisognosi, quindi un diritto assolutamente intoccabile, garantito, però diciamo che ecco, questa è la versione di Massimo Grella, che ringraziamo ovviamente per essere stato ancora qui, segretario generale della CISL Funzione Pubblica di Venezia. Vediamo un po'. Diciamo che il Gazzettino per due giorni non ha proprio dato l'idea che fosse tutto a posto, però. No, c'è Morena da Belluno, gli ascoltatori. Pronto, ciao. Solamente una cosa, una risposta all'ascoltatore di prima che era un impiegato e parlava di, del ritorno ai mestieri umili. Lui diceva per esempio l'idraulico che prende 50 euro per la chiamata e costa come un suo giorno di lavoro. Volevo ricordare che se l'idraulico è onesto, dei 50 euro per la chiamata gliene restano 20 scarsi se paga le tasse. Sì. Quindi non è vero, con quei 20 l'impiegato non si paga un'intera giornata di lavoro. Quindi i mestieri umili o i mestieri manuali forse attirano meno persone, perché se si vogliono pagare le tasse, se si vogliono fare onestamente, non sono poi così appetibili nel nostro paese. Tutto qui. Tutto qui. Però Morena, e qui che ci mettiamo d'accordo su cosa vuol dire questo mestiere umile, che non è stato l'aggettivo usato dal nostro ascoltatore, parla di professionalità tecniche. Io direi utile più che umile. Tecniche. Utile. Guardi, le professionalità tecniche che sono quelle che mancano nella manifattura, cioè mancano periti in grado di usare macchine digitali di controllo di produzione che contemporaneamente producono e si autocontrollano. Mancano in Italia, quindi periti tecnici industriali avanzati, però è il diploma della secondaria dell'istituto tecnico, ecco. Quella sono funzioni tecniche. E cosa c'è di umile? Niente, assolutamente nulla. Un tecnico di impianti oggi edilizi, quelli per i grandi condomini, grande riscaldamento, eccetera, che cosa ha di umile? Niente. E questo è il punto. Quindi, secondo me, la definizione umile, mi perdoni, non è tanto quello il punto. Dopodiché, l'idraulico costa 50 euro? Indicatemelo, perché ma sulla chiamata io vedo chiamata. Quelli che utilizziamo nel mio condominio, no, la chiamata, la banale chiamata, tutto regolarmente infatti fatturato, ma i costi sono di tutt'altro ordine, non 50 euro. E comunque ripeto, più utile che umile mi sembrano questi tipi di lavori. C'è Franco da Roma. Franco, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Eccoci. Milan e Giannino. Eccoci. Io volevo intervenire proprio su questo aspetto dei tecnici che mancano. Sì. Allora, le scuole professionali, il diploma di scuola professionale consente ai ragazzi di rivolgersi anche ad attività professionale, libero professionale. Questo significa sottrarre, diciamo così, manodopera tecnica al mercato e inondare il mercato di nuovi liberi professionisti, nella convinzione, naturalmente, il libero professionista convinto di poter guadagnare tanti soldi lavorando e faticando molto meno rispetto a quello che farebbe in fabbrica o con attività, diciamo, più manuali. E alla fine si crea una confusione enorme e si creano oltretutto concorrenze tra tecnici laureati e tecnici diplomati, che non fanno affatto bene al mercato del lavoro e non fanno neanche bene alla qualità del lavoro professionale. Però guardi, scusi, tanto nella media in questi anni si è capito, è diminuito il numero di apprendisti nelle aziende artigiane proprio per questa ragione, è diminuito il reddito medio di molte figure professionali sia laureate che no nelle cose tecniche, perché la questione è tragica anche per gli architetti, tanto per cominciare a dire una. Quindi poi alla fine la gente non è che si ostina a fare le cose se poi non riuscirà, quindi è vero che c'è un problema di apertura delle specifiche tecniche anche per esempio ai geometri rispetto a quelle prima privative degli architetti, però nella valutazione delle specifiche tecniche per esempio del patrimonio edilizio io non trovo che sia una cosa sbagliata. Se poi lei difende la privativa in quanto tale, come i notai il loro diritto di firma alla Picasso, quello è un problema delle caste italiane, ma non è un problema di competenze tecniche che mancano ai geometri. Vediamo se chiudiamo con Franco da Roma, l'abbiamo appena sentito. C'è un altro ascoltatore da Roma, però mi hanno tolto come si chiama, ce lo dice lei. Buongiorno caro ascoltatore, perché mi hanno tolto dalla schermata. Come si chiama? Buongiorno, Giuseppe. Giuseppe, benissimo, grazie, dica Giuseppe. Allora, volevo lanciare una riflessione sul fatto che spesso quando parliamo dei giovani parliamo come se fossero loro stessi la causa della disoccupazione, del fatto, ecco, che non che sono dei fannulloni, dai, che sono dei fannulloni. Okay. Mentre invece loro purtroppo sono delle vittime. Esatto. La causa sta nel sistema, la causa siamo noi adulti, la causa sta nel fatto che purtroppo il sistema è studiato appositamente per mettere sotto schiaffo, passatemi il termine, chi poi diventa soggetto di tra virgolette ricatti sociali, morali e via dicendo, quindi i giovani sono delle vittime, dobbiamo cercare di aiutarli e dobbiamo cercare di fare in modo che il sistema però ci siamo, quando si tratta di dire cominciamo con ribaltare il più della spesa sociale fatta per prepensionare la gente, la gente punta i piedi e dice neanche per idea. Allora è lì il problema del 25% ancora... di PIL di spesa sociale, il 16% vale pensioni, è ancora, per... è ancora più ampio, è ancora più ampio, però guardi i numeri dicono 16% PIL pensioni su 25% spesa sociale, quindi cominciamo di là e lì le dico io la risposta è no. Quindi allora siate coerenti, perché sa, aiutiamo i giovani, bisogna ribaltare la priorità della spesa sociale a loro favore, a favore della famiglia, delle donne poco occupate e dei giovani. Significa cominciare dalle pensioni, non andare in pensioni no, prima. Pensioni, Lavari, pensioni, pensioni. Lavari, che era lì tutto contento. Giuseppe, la ringraziamo, eravamo anche in chiusura, insomma, ma è stato chiaro nel suo intervento. Ci dobbiamo fermare qui con Elisabetta Fusconi, Lorenzo Nespoli e Chiara Compagnoni in redazione e il nostro Peter Bescapè in regia. E vediamo se Belotti viene assunto oggi. Vediamo, vediamo, il Gallo viene assunto, non qui a Radio 24, dal Milan. Tutti convocati. Ah, ciao, ciao.